Qui è Tandos, com'è? No, non sono... Storia lunga, carissimo Marco, buonasera e ben sentito. Storia lunga, ti racconterò. Qua non va per niente bene, non va niente per niente bene, proprio lascia perdere. Dai, ho dovuto fare delle cose, quindi ci sentiremo in disparte, per così ti dico. Sono in compagnia da Gianni da Sinnuri, e lui risulta una settantina di metri più, cioè da Sorso, scusa, non da Sinnuri, da Sorso, e lui una settantina di metri più in alto di me, Marco, quindi te lo rimando avanti, poi se entro 10 secondi non lo senti, riprendi tu. Vai Gianni, Marco dal, diciamo, quasi centro Sardegna, centro nord, dai, avanti Gianni. Ciao Marco, non so se mi occupi, qua siamo qui da Sorso, niente, prova di uno e prova di due, ciao da Sorso. Non l'hai sentito Marco? Sì, Marco. Purtroppo, non è che sono... Dai, ho visto il tuo messaggio, ho detto lo rispondo, però no... Dai, ti ho mandato la fotografia dell'alimentatore, però non della restante situazione. E va bene così. Quindi... No, io sto utilizzando, dai, il classico 6009 che utilizzo io con l'amplificatore, ma considerando l'altezza degli altri, carissimo Marco, secondo me con 10 watt ti sei arrivato anche a piegarti l'antenna, ma non deve essere che ho un varco verso la tua postazione che va a dominare. Ho fatto chiamata anche sabato mattina, ho fatto chiamata domenica mattina, erano le 6:30 e nessuno ha risposto, e poi ho fatto chiamata domenica dopo pranzo verso le 13:45, nessuno ha risposto e quindi ho chiuso, e poi stavo facendo roba con la famiglia e mi sono messo a fare altro, però era silenzio totale anche stasera. Sono entrato per pranzo ed c'era un silenzio totale, un silenzio oltre tomba. Vai di nuovo Marco. Gianni, l'hai ascoltata Marco? Gianni, ma l'hai ascoltata Marco? Gianni? Sì, Gabi, no, non lo sento io, no, lui non lo so se mi sente. Porca miseria, guarda, è una cosa stranissima. Cioè Marco, lui non sente a te e tu non senti a lui. E considera che io sono in una piana che sono al minimo a 70 metri più in basso di lui. Assurdo, guarda, è una cosa che non riesco a spiegarmi. Ma neanche Tino, vediamo un po' se c'è Tino, ci sei, lo ascolti a Marco. Forse Tino è andato in luce perché anche lui è entrato tardi. No, ma non ti ascoltano, Marco, ma non perché non arrivi forte di segnale o di radio, è proprio, non lo so, io qua sono in un punto dove mi sta arrivando se è 8-9, anche se sei in FM, c'è qualcosa di oscillante. Sì, perennemente a 8, però vai a toccare a volte anche in qualche picco di modulazione, sia anche 9. Sì, ma infatti, ma in ricezione non deve avere watt, in ricezione deve avere antenna e un impianto fatto bene. Io te ti ascolto S8, sei S8 fisso, S8 a volte fai un picco di 9, adesso tu lascia perdere che io ho uno smitter che è digitale, ma fai che realmente sia un SSI, un S5, un SSI, però riesco a tirarti fuori, io qua ho un rumore di banda in FM di 2, capito? Ho un rumore di banda di 2, 3, 2. Però riesco a tirarti fuori alla grande. E lui, e soprattutto mi meraviglia a me, Tino, che non riesce a tirarti fuori lui da proprio da vicino a Sassari e non riesce a tirarti fuori. Io sono a livello di mare, io sono, come ti posso dire, 10 metri sopra il mare. Ho una plana, io sono a 2 km dal mare, dalla prima spiaggia. Però è vero, l'antenna la fa da sé, ed è quando dicono, vedi, ma la paghi 250, 300 euro, c'è un motivo e se un'antenna ne costa 100 e l'altra ne costa quasi 300, vuol dire che c'è un motivo, niente va a caso, vai Marco. Sì Marco, rilancio Gianni a vedere, Gianni attacca un po', attacca l'amplificatore così vediamo se ti riceve Marco. Ehi, prova di uno, prova di due, Marco mi senti qua a San Pietro da Sorso, zona alta però io non ti ascolto, cambio. Cioè già, ma tu lo sai, Marco è dalle parti vicino a Tempio, io sto copiando Tempio S9 qua, S8, S9. Ehi, capisco, ma magari lo sai cos'è? Che tu essendo un pochino più in basso, tipo l'onda di riflette di più sul mare, quindi viaggia diversamente, io essendo più in alto non rispecchia come rispecchia da te, e quindi magari tu lo copi di più, poi sei pure che sul fattore. Già, l'ovatore è antenna, e quando dici, ma quella costa 50 ed è uguale, no, non è così, il fattore è l'antenna, sono le antenne, è tutto l'impianto che va, perché ammettati sempre una cosa, 1 più 1 più 1 più 1 più 1, fino ad arrivare alla soglia che tu desideri, può essere una banalità, una stupidaggine, però conta nella radiofrequenza, conta tanto, quindi quando io dico fate così, non fate così, mica, e Disney, non è uguale, le cose non sono uguali, quindi queste qua sono le dimostrazioni che io ti mando la foto, che Marco a me mi arriva qua S8, picchia 9, fa 8-9, e io arrivo a lui, e lui è vicino, forse è un po' più lontano di Tempio, ma tu devi considerare che sono in una plana, io sono dove c'è, dove, lo sai dove sono, quindi gioco a un livello di mari, e vaggio tutti i monti di Osilo, quei tre monti che mi coprono, ho un disastro totale, però vedi cosa vuol dire. E infatti quando dico, se io con questo impianto sarei stato almeno nella postazione o tua o di Franco un pochino più alta, guai. Le antenne vogliono dire tanto, vediamo se è entrato Marco. E c'è Gianni adesso anche Potenza, però non credo che l'hai copiato, Vai già, prova. Ciao Marco, buon pomeriggio, qua a San Pietro a Sorso, mi senti? Prova di uno e prova di due, cambio. E lui sto utilizzando una Game Master, un Saturn Echo uguale a quello mio, che però io adesso non utilizzo, ma sono sicuro che se voi facciamo la prova, che se io metto il Saturn Echo con l'altro amplificatore ti arrivo anche più forte. Proprio questo è proprio sicuro, e mi scommetto quello che vuoi. Sto utilizzando una Game Master, un Saturn Echo e un BV131, ma considera che lui è quasi in punta a Sennuri, cioè è tra Sennuri e Sorso, tra sorso e sinuri, quindi è in alto, in alto, in alto, in confronto a me che io sono proprio a livello di mare, mi Marco. No, no, no, no, no, no, perché la radio non glielo permette. Vuole tarata, vuol fatta, quindi non glielo permette momentaneamente. Passiamo in AM a vedere, passiamo in AM un pochino a vedere. Gianni, passa in AM un attimino. Vai Marco. Chiamata per Marco. Buon pomeriggio, ciao Marco, Marco qua Gianni da Sorso, Sorso San P in modulazione, mi senti? 1 2 3 1 2 3, prova Gianni da Sorso, cambio. L'hai copiato Gianni? No, non lo sento più, vuol dire che questa antenna c'ha un'indipendenza. Già, prova a metterlo in uniforme Sierra Bravo. Marco, passiamo in uniforme Sierra Bravo. Vediamo un pochino. USB, Gianni, USB. Ok, ci sono anche io. Guarda a vedere se va meglio qua. Mi hai copiato, Marco? Sì, a voglia. Scusami, avevo lo scratch un pochino alto. Sì, alla grande, è bella. Bellissima, anzi non bella, bellissima. Vediamo un pochino, se Gianni ti riceve qua. Vai Gianni, lo copi? Niente, Gianni no, niente. Ha mollato. Va bene. Io questa cosa non me la spiego, eh. Io questa cosa, Marco, non me la spiego perché è un po' un enigma. Sì, mi sento, voi non mi sentite. Non mi sentite, Marco? Sì, Gianni, ti copio, aspetta un attimo, sta parlando. Gianni, l'ha ascoltato Marco? Grande. Vai di nuovo. Sì, ha detto che faceva la faceva e poi si faceva sentire. No, ma il problema non sai cos'è, che paghi, capito? Quando uno paga, poi ti arriva la roba da danneggiata, quello ti rompe talmente le scatole. Non è che io sono andato a chiedere a questo bastardo, figlio di puttana, di farmi la roba, pagherò. No. Il bonifico è stato fatto anche in un modo istantaneo, quindi siccome è un bastardo, un figlio di puttana, perché l'impallo non è stato fatto come doveva essere fatto, perché è un, ripeto, un figlio di puttana, io lo ripeto sempre, è un figlio di puttana, è la mamma, è una disonesta, quindi mi ha fatto un pacco di merda e si mette le mani nel trianguleggio. Sì. Non credo che sia più. Preferisco le radio romperle a massa piuttosto che mandarle a lui. Le rompo a massa, con la massa, una bella massa a 4 kg, gliela tiro su un chassis e le rompo. Ma non gli mando più niente, Marco. Più niente. Perché la mamma è una bagassa, ma veramente, guarda, sono arrabbiatissimo perché poi non sono neanche più entrato in frequenza, perché poi, lo vedi, qui ho preso sclero e le parole sono quelle che sono qua, anche più gravi, poi è un disastro. Sì. No, ma non è solo l'alimentatore, non è quello che mi rompe le scatole, è anche il trasmettitore. L'alimentatore non lascia perdere. Va bene. Intanto guarda, chiunque abbia fatto quel danno, io il male non glielo auguro, perché il male, per carità, non glielo auguro, però gli auguro la stessa cosa che sto, la stessa cosa che ho provato io, la stessa cosa io prendo, io ho altri pensieri, perché il lavoro, altre cose più importanti, non sto pensando, però un po' mi ha disturbato, capito, perché per aggiustare quella attrezzatura lì io ho fatto lavori extra, non ho tolto soldi da casa, però ho fatto lavori extra e mi ho fatto il matto, stato lontano dalla famiglia, stato lontano dalla cosa per ripararmi con l'attrezzatura, quindi a me non mi devono molto rompere le scatole. A chi io piglio, sono proprio capace di pigliare e farvi la magna alla radio, proprio la radio, l'alimentatore, quello che è, vi la vostra magna, io con la faccia vi la vostra magna, e proprio ho detto papale. Sì, passiamo in FM, Marco, per un attimino mi allontano un attimino, bevo un bicchiere d'acqua, arrivo subito, passo in FM, ti richiamo io un attimino, scusami. Ok, eccomi qua. Allora, aspetta che cambio modalità, ok. Vediamo un po', Antonello, ci sei? Sì, sono entrato, sto provando a chiamare un altro amico, vediamo un po' se è entrato stasera. Antonello ci sei? No, Antonello stasera non è entrato. Tu Gianni ci sei? Non c'è neanche Gianni. Ci hanno abbandonato tutti. E va bene. E quindi è quello. E te lo stavo dicendo che in pratica la mamma è bagassa. Però hai finito di fare appello. Allora, Marco, vediamo se copi a Tino. Vediamo un pochino, vai Tino. Chi c'è? Io non sento nessuno, lo squelo c'è tutto, quasi tutto chiuso, dai. E allora, abbassa lo squelch e guarda a vedere se copi a Marco. Guarda se copi a Marco, l'amico che sentiamo giù, vediamo un pochino. Vai Marco. Ciao Marco, non so se mi ascolti, dai, provo a farmi, ti ho sentito un S1, un e mezzo, però sono riuscito a toglierti fuori, aspetta che provo a accendere l'altra radio, dai. L'hai ascoltato Marco? Oh, vai, fai il tuo meglio. Vediamo un attimino se riesci a ascoltarmi ora. L'ho appena acceso, deve scaldare, vabbè, un pochino, può darsi che riesce a ascoltarmi. Ciao Marco, se mi ascolti, con la buonasera. Dai, io sono, diciamo che l'ho appena acceso e quindi non so, vediamo un attimino se riesco a migliorare, capi? Allora, vediamo un attimino. Non fa forse qua. Boh. Vediamo se è cambiato ora. Aspetta, capi, che faccio scaldare da un'altra parte. Ora. Vabbè. Tino, posso dirgli le tue condizioni? Tino, un attimo che magari Tino sta accordando. Se mi darà il permesso ti dirò le sue condizioni e le mie. Sì. Però adesso vediamo un pochino come è messo. E metti come sì. Oh, capito, ero da un altro canale, dai. Stavo provando a vedere se migliora. Guarda un pochino ora se è migliorato. Sì. Tino, posso dirgli le condizioni di entrambi? Sì, a me non interessa. È che non so se sono accordato qua adesso, aspetta. Perché in FM effettivamente va. Boh, vabbè, prova un pochino, dai. Non so se è migliorato o meno. E non so neanche quanto sto arrivando a lui. Come lo occupi tu adesso, Marco, a lui? Puoi passare in banda laterale in uniform se era bravo? USB. Prova, dai, uniform. Sì, uniform se era bravo, vai Marco, uniform se era bravo, USB. Ma tu mi ascolti male qua, capi? Assolutamente no, Tino, ti ascolto benissimo. Passiamo in uniform se era bravo. Anche io ci sono. Ci sono anche io, ecco. Pronti? 1, 2, 3, check, prova. Check, test, e prova. Allora Tino, mettiti in isonda con me. Se tu ti metti in isonda con me, a Marco lo occupi bene. Allora, faccio la prova. Test, check, prova. Test, check, prova. Sound, test. Test, check, prova. Mi ha allineato, ok, perfetto. Vediamo un po' come ti copia Marco. Vai Marco. No, io ti ascolto benissimo, ti ascolto benissimo, non so se mi ascoltate bene voi, guardate un po', vai Marco. Sì, confermo Tino, sei in isonda, va benissimo e ti ascolto bene Tino e non ci sono problemi. Vedi, quando ti dicevo che quell'amplificatore vuol settato per la uniform, perché a volte in frequenza modulata o in AM sì, puoi dare anche magari il kilowatt, però il corrispondente non ti copia, mentre in uniform se tu lo bene in FM, lo porti in massima potenza in FM, poi vai in uniform se era bravo, sì, alla grande, come adesso io ti ascolto, guarda, ho provato ad attenuarti, allora, tant'è vero che Marco lo ascolto, come ti ho attenuato, lo ascolto S3 a Marco, e tu qua sei 9 più 30, quindi noi siamo vicini, però almeno lui credo che ti ascolti S5 ti ascolta, vai Tino. Guarda, adesso l'ho messo in modalità SSB, vediamo un pochino se è cambiato qualche cosa, vediamo un po' Marco com'è. Va, riprendo io perché io devo anche mollare fra un po'. No, io ne sto usando circa, qua mi sta dando circa 500, a te Marco ti ascolto solo di radio, nessun segnale, però leggero, infatti quando parla Gavino devo abbassare il volume, se no mi fa saltare i microfoni che ho sopra il tavolo. Vai a vi. Sì. Guarda, io qua ne ho, forse sto utilizzando 200, 270, 270, 270 modulati. Se poi vado a fare il PEP arriva anche a 320, 340, però così modulati sono 270, 280, non di più perché ti direi una bugia e no, non va bene, sto facendo delle comparazioni serie, quindi io poi guardate le caratteristiche, sto utilizzando un RM Italy, un KL503 HD, sono in quinta marcia con lui, accetta i 20 watt di ingresso, li sto dando intorno ai 17-18 watt di ingresso dalla radio, è alimentato con un alimentatore da 30 ampere, quindi è anche sottodimensionato, comunque dovrebbero essere intorno ai 270-280 watt, e poi quando vado in PEP sono intorno ai 320-340, ma fischiando, così, test check, mi accorgo che sono intorno ai 280, 285, non di più. Vai Marco. Allora Marco, di segnale purtroppo non mi sta arrivando niente, solo radio, riesco ad ascoltarti, devo alzare anche un po' il volume, questa radio non mi sta dando nessun tipo di valori, purtroppo è un HR525 questo, un HR525 tipo plus, diciamo, una cosa del genere. Come segnale non ce n'è, però di radio riesco a ascoltarti alzando il volume un pochino di più. Poi giustamente, ripeto, quando parla Galvino devo abbassare perché sennò mi fa saltare la colonnina. Marco, dammi un controllo tu invece quanto sta producendo questa. Io stavo usando intorno ai 500 e di più non va adesso qua in banda. Allora, sei passato da S6, S7 a picchi di S9, S6, S7, come di prima si è passato a picchi di 8-9, la radio è rimasta invariata, scusate il colpo di tosse, la radio è rimasta invariata, però il segnale un punto S è andato su, il segnale un punto S è andato su. Stiamo usando più o meno la stessa radio, la stessa radio, però con l'amplificatore qualche giorno lo porti qua e proviamo a fargli qualcosina perché con l'amplificatore ha dei zener che non vorrei che siano in perdita, quindi qualche giorno, qualche domenica mattina, magari lo porti, li controlliamo e perché è strano è che tu col doppio dei miei watt, diciamo della mia potenza, arrivi così. In quell'amplificatore ci deve essere qualcosa che è in perdita, oppure gli va fatto un accordo bene e fatto le valvole. Magari chiamiamo Marco e ci facciamo dare un controllo qua, almeno che non sia la mia postazione che io sono in un punto magico che riesco ad arrivare anche ad Arzachena. Io Marco sono arrivato anche in uniform Serra Bravo S8 ad Arzachena, con questa la stessa bugia, stavo utilizzando il presidente Lincoln che mi ha gentilmente regalato Tino, quindi avevo lo stesso amplificatore però con il presidente Lincoln e arrivavo ad Arzachena S7, la radio 5, e dai, sicuramente è la mia posizione che è magica, oppure il mio traghetto sta facendo un lavoro male. Vai di nuovo Marco, e poi salutiamo Tino che deve andare a cenare. Si è spostato in un altro canale per fare un accordo, Si è spostato in un altro canale per fare un accordo, infatti mi sta sblatterando. mi sta sblatterando, è un animale, non c'è niente da fare. Mi sta sblatterando S8 e così, purtroppo è così. Niente. Sì, ma io lo so, me lo so Marco, che a volte magari tutta la potenza che può togliere un amplificatore, poi basta anche un PL che sia un po' messo male, tutto si dissipa in calore, niente in antenna. Infatti quando non è il caso di Tino, perché Tino è uno che fa anche a curare sta roba, e poi è da un po' che non facciamo certe prove. Magari ci diamo un appuntamento in questi giorni, mi do un appuntamento, gli do una controllatina in antenna, però quando io sento certi risultati, Pula. 150 watt, 300 watt, ho capito, ma in antenna quanto hai? In antenna quanto arriva? L'antenna quanto sviluppa? L'antenna che quanti spierola? E dicono, no, ma le mantova, ma quella così, non c'entra niente, è uguale a Grazioli. No. Perché poi le differenze, vedi, le antenne le fanno e poi si vede anche da come io curo, che poi mi dicono tu sei un purista, tu fai quello, tu sei troppo perfettino. No, io non sono troppo perfettino, sì, ti faccio entrare subito, Tino. Anche in altre frequenze, quando io dico SVR in antenna non ne voglio, è perché? Più l'antenna è a uno stato, o diciamo lo stato dell'antenna è perfetto, e più tu, per esempio, anche in certe bande, quando vai a perdere anche un watt, due watt, vuol dire tanto, non in queste qua, ma quanto in UHF, un VHF, quando perdi un watt, stai perdendo tanto, anche il metro, i due metri dell'altezza del palo, vogliono dire tanto, io queste cose le ho imparate, le sto scoprendo adesso, approfondendo tutto questo discorso. Mi segui, Marco? Ora rilancio un attimo, che mi ha dato un paio di mazzate in UHF, per poco mi butta dalla sedia. Vai, Tino. Va bene, dai, ho capito perché c'era la voce tremolante, avevo l'amplificazione, credo l'amplificazione è troppo alta. Marco, dammi conferma ora se mi ascolti meglio o peggio. Dai, io però vi devo salutare, mi date l'ultimo controllo e poi vado a fare un po' di carica batterie. A te, Marco. Buona cena. Io ho acceso anche giù, se vogliamo entrare lì ci facciamo un paio di passaggini, poi se volete, se Tino ne ha voglia dopo, ma lui fa quelle cene di un paio d'ore che lo aspetti fino a mezzanotte e poi a mezzanotte un quarto. Vai, Tino, di nuovo per te, di nuovo buona cena a te, correa familiare. Sì, dai, riprendo io, e se volete fare un'ultima prova, è giusto in FM, vedere perché poc'anzi stava lavorando male. Passiamo un attimino in FM, poi vi lascio e vado a mangiare, dai. Un controllino veloce, Marco, in FM. Eccolo qua, vediamo un pochino se ha cambiato la situation, Marco. Se ha cambiato la situation anche come segnale, qua sta lavorando. Diciamo sta lavorando intorno ai 750 ora, quindi suppongo che qualcosina in più ce l'ha. Sì. Niente. Non, però Marco non ti ha sentito, Tino? No, in FM è negativo. No, no, non ti ha sentito, non ti ha sentito. Eppure io qua ce l'ho S7, io qua ce l'ho S7, la radio è buona, buona, ho il volume, ho, diciamo il volume delle radio, ho, è gradevole per tutti e due. Però c'è qualche monte che a me mi infastidisce in confronto a te, quindi no, non riesco ad ascoltarlo. Cosa ha detto? Il segnale è rimasto lo stabile? Sì, il segnale è rimasto stabile, ha detto. La modulazione è buona, però se tu non lo senti c'è qualcosa in ricezione e quelli ti sono, è quel problema che c'hai tu, quella roba delle cornacchie. Vabbè dai, passate dopo voletti, io mi sto allontanando. Salutone ancora Marco, dai, ci riascoltiamo le prossimine e magari in qualche altra parte ci si rincontra. Ciao Gavi, dai, vado a fare carica, poi se non faccio tardi, c'è sempre, insomma, c'è sempre un po' di movimento qua. E quindi devo attingere. Ok? Dai, ciao a tutti, ciao, riprendi Gavi. Sì, Tino, dai. Va bene. Io ho acceso anche giù, se vuole passare giù, Marco. A 75 siamo. Ho acceso anche giù momentaneamente. Va bene. Marco ha chiuso, Tino ha chiuso e ha detto magari dopo se ci siamo si fa sentire. Cosa vuoi fare? Vuoi passare? Sì, a 75 sono Marco.